Quindi, dopo 14 anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, dopo aver preso con me anche Tito. Vi salii in seguito ad una rivelazione ed esposi in privato ai notabili il Vangelo che proclamo ai pagani, per evitare il rischio di correre o di aver corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me, pur essendo greco, fu obbligato a farsi circoncidere. Ma a causa di falsi fratelli intrusi, i quali si intrufolarono per spiare la nostra libertà che abbiamo in Gesù Cristo, allo scopo di renderci schiavi, ad essi non cedemmo neppure momentaneamente sottomettendoci, affinché la verità del Vangelo rimanga salda in mezzo a voi. Da parte di coloro che sembravano essere qualcosa, quali fossero un tempo, non ha per me nessun interesse. Dio infatti non guarda la persona dell'uomo. A me infatti i notabili niente aggiunsero, ma anzi al contrario, vedendo che a me è stato affidato il Vangelo dei non giudei, come a Pietro quello dei giudei. Colui infatti che assisté con la sua forza Pietro nell'apostolato tra i circoncisi, assisté anche me tra i pagani, e conosciuta la grazia data a me, Giacomo e Cefa e Giovanni, che erano stimati le colonne, diedero la destra a me e a Barnaba in segno di unione. Noi dovevamo annunciare il Vangelo presso i pagani, essi invece presso i circoncisi. Solo avremmo dovuto ricordarci dei poveri, ed è ciò che mi diedi premura di fare. Quando però venne Cefa ad Antiochia, mi opposi a lui affrontandolo direttamente a viso aperto, perché si era messo dalla parte del torto. Infatti, prima che sopraggiungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva i passi insieme ai convertiti dal paganesimo. Ma quando venne quello, cercava di tirarsi indietro e di appartarsi, timoroso dei giudei convertiti. Presero il suo atteggiamento falso anche gli altri giudei, cosicché perfino Barnaba si lasciò indurre alla loro simulazione. Ora, quando mi accorsi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa davanti a tutti: «Se tu, essendo giudeo, vivi da pagano e non da giudeo, come puoi costringere i gentili a vivere secondo la legge mosaica? Noi, giudei di nascita e non peccatori di origine pagana, sapendo che non è giustificato alcun uomo per le opere della legge, ma solo in forza della fede in Gesù Cristo, credemmo anche noi in Gesù Cristo, appunto per essere giustificati per la fede di Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non sarà giustificato nessun mortale. Se poi, cercando di essere giustificati in Cristo, ci troviamo ad essere peccatori anche noi, Cristo è allora fautore di peccato? Non sia mai detto. Se infatti io costruisco di nuovo ciò che distrussi, mi dimostro colpevole di trasgressione. Io infatti, attraverso la legge, morii alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocifisso insieme a Cristo. Vivo, però non più io, ma vive in me Cristo. La vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede, quella nel Figlio di Dio che mi amò e diede se stesso per me. Non rendo vana la grazia di Dio. Se infatti la giustizia proviene dalla legge, allora Cristo è morto per nulla.